24 mattino. Le 8 e 18 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, 349-238-66 per i vostri messaggi. E è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. E ritroviamo dunque con piacere Deborah Rusciani. Ciao Deborah. Piacere ricambiato anche questa mattina, buongiorno. Eccoci qui, oggi parliamo di un tema che è caro a tutti gli italiani perché è legato alla casa, la scelta, l'acquisto della casa, insomma, che è un aspetto importante della vita di moltissimi italiani e che nasconde spesso, purtroppo, troppo spesso, molte insidie. Secondo te è più sicuro comprare casa rivolgendosi al mercato dell'usato o comprare una casa nuova in costruzione, Alessandro? Che domande, ma io non sono l'esperto. No, vabbè, ma ci avrai un'idea. No, beh, certo, forse il nuovo bisogna, insomma, anche l'esposizione economica è molto più ampia, quindi bisogna stare molto attenti. Bisogna stare con molto attenti. Occhi aperti. Anche al soggetto a cui ci si rivolge. Comprare una casa nuova comporta appunto diversi rischi. Lo hanno appreso purtroppo molte famiglie che in passato si sono trovate coinvolte in molti casi di fallimenti immobiliari. Negli ultimi 10 anni, pensate, ci sono state più di 60.000 famiglie rimaste vittime appunto di fallimenti immobiliari. E allora parliamo di questo tema per capire quali sono le tutele a favore del compratore qualora ci si rivolga ad un mercato di questo tipo. Ringrazio e saluto di essere con noi Riccardo De Benedetti, è vicepresidente di Assocond Conafi. Il Conafi è il Comitato Nazionale Vittime di Fallimenti Immobiliari. Non è un caso che Riccardo De Benedetti rivesta questa carica in questo organismo, perché anche lei, De Benedetti, qualche anno fa ha tentato di comprare una casa in costruzione. Com'è finita? Beh, è finita malissimo e quindi la mia storia è diventata un po' in parte una storia esemplare che poi mi ha spinto a mettere in piedi un coordinamento tra tutte le persone e famiglie che avevano subito i miei stessi problemi per vedere di porre un rimedio sul piano legislativo. La cosa è riuscita e appunto nel 2006 le leggi e la legge, il decreto legislativo che prevede una tutela poi fondamentalmente, che è quella dell'obbligo al costruttore di garantire i soldi che l'acquirente versa in anticipo, cioè prima del rogito, fossero garantiti da una fideiussione bancaria. Il meccanismo per cui si arriva al fallimento è di pertinenza, diciamo così, del conto economico dell'impresa, quindi è un po' fuori dalla portata della comprensione dell'acquirente, per quanto accorto e attento questo possa essere, e quindi come tutte le legislazioni europee bisognava dotarsi di strumenti adeguati per evitare che questo ingente patrimonio che la famiglia italiana destina all'acquisto della casa ad abitazione fosse adeguatamente tutelato. Tra l'altro questa legge di cui parlava è la 122 del 2006, ha istituito anche un fondo di solidarietà destinato a risarcire le vittime. Diciamo che sì, c'è stata questa richiesta ovvia, nel senso che nel momento in cui si mette in piedi un articolato di questo tipo implicitamente si riconosce che coloro che invece questa tutela non l'hanno avuta, hanno subito un danno e quindi è un indennizzo. Devo dire che dal punto di vista di chi ha subito il fallimento questo indennizzo, per quanto potrebbe anche restituire tutto quanto nell'ambito, diciamo, nel raggio temporale di 15 anni, non ripagherà sicuramente la casa che poi inevitabilmente si è persa. E anche il danno morale ed emotivo che ne è seguito rispetto ad una situazione a questo tipo. Ci ritorniamo fra un attimo, De Benedetti. Vorrei sentire anche Claudio De Albertis, che è presidente di Assimpredil ANCE, l'associazione nazionale dei costruttori edili, tra l'altro un'associazione che in questo momento affronta anche in qualche maniera la crisi del mercato immobiliare, la caduta dei prezzi, il credit crunch, le banche che non erogano finanziamenti. D'Albertis, buongiorno e grazie di essere con noi a Soldi e Dintorni. Buongiorno. Com'è possibile che un costruttore che ha risorse finanziarie per avviare la costruzione di un immobile, la proprietà del terreno, che abbia un progetto dal punto di vista urbanistico a posto, tutti i permessi in costruzione, magari si imbarchi nel progetto appunto di costruire un edificio con 100 appartamenti, magari già prenotati con l'auto e caparre da altrettante famiglie, ad un certo punto si ritrovi a non poter più andare avanti con il lavoro? Perché succede? Ma Questo può succedere ed è successo sicuramente anche perché purtroppo non c'è una patente per fare l'operatore immobiliare, il costruttore, e sul mercato ci sono moltissimi operatori improvvisati che indiscutibilmente con il loro comportamento hanno dequalificato il sistema. Chiaro, può capitare anche a grandi aziende di questi tempi, per esempio con questa limitazione all'accesso al credito, molte aziende si possono trovare per esempio in difficoltà di liquidità, e questo può essere uno dei motivi che possono innescare processi che portano anche alla chiusura dell'azienda. Questo capita, ecco. Però indiscutibilmente il nostro panorama è fatto anche di tante aziende sane che sono capaci di garantire l'acquirente attraverso il rilascio di fideiussioni che, come la legge ha previsto, coprono sostanzialmente tutti i soldi, eccetto il mutuo, cioè tutti quelli che l'acquirente versa direttamente al costruttore. A cosa serve la fideiussione di Albertis? La fideiussione, così, per capire, anche perché noi dobbiamo, da una banca, da un'assicurazione, garantisce che nel caso l'azienda fallisca o succeda qualcosa del genere, nei fatti è la stessa compagnia di assicurazione, la stessa banca, che restituisce all'acquirente, al potenziale acquirente, le somme versate. La legge ha previsto addirittura, questo è uno dei nodi su cui stiamo discutendo, che all'atto della firma, del preliminare di vendita o dell'opzione che sia, l'impresa costruttrice, il promotore dell'iniziativa, debba rilasciare una fideiussione non per i soldi versati in quel momento, ma addirittura per tutti i soldi, escluso il mutuo, che verranno versati da lì fino al rogito. Ecco, questi sono i punti sicuramente fermi dei quali un possibile compratore deve avere pienamente coscienza nel momento in cui si accinge a fare un acquisto di questo tipo. De Benedetti, tra l'altro, diceva De Albertis, è un mercato in cui molto spesso capita di incappare in operatori improvvisati, peraltro questo non è stato il suo caso. No, assolutamente, quindi da questo punto di vista però capisco anche diciamo la necessità, tra virgolette, che purtroppo capita anche che il conto economico non funzioni o che venga fatto male, quindi io non getto neanche la croce addosso così agli imprenditori. Certo che da un certo punto in poi, vista poi la propensione degli italiani ad acquistare la casa, bisognava per forza mettere in sicurezza i soldi che vengono anticipati, per un motivo molto semplice: io non do i soldi in anticipo all'impresa per partecipare ai suoi utili, do l'anticipo di un bene che mi verrà consegnato successivamente, quindi le garanzie ci devono essere. Poi dopo come articolarle, certo, lo strumento fideiussorio ha anche dei limiti che sottolineava Claudio, però occorre che in questa fase perlomeno ci sia, come dire, lo sforzo di mettere in tutela i soldi degli acquirenti, anche perché con la restituzione immediata dei soldi nel caso del fallimento, quei soldi non vanno fuori dal settore, perché se uno ha scelto di comprare la casa in quel momento, e in genere lo si fa in finestre temporali ed economiche uniche, i soldi rimangono nel settore, certo si orientano verso un operatore più serio. Nel mio caso, per esempio, avendoli persi nel 98, avendo realizzato di non poter più entrare in possesso della casa e avendo perso i miei soldi sono usciti dal mercato, sono usciti dal settore, cioè non sono rimasti all'interno di quello che è, diciamo così, la soddisfazione del mio bisogno in quel momento, che era l'acquisto della casa. Dobbiamo chiudere, allora vorrei chiedere aiuto per concludere a Claudio De Albertis, in qualità di costruttore, ci deve aiutare a dare alcune raccomandazioni a chi si sta accingendo a fare un'operazione di questo tipo, quindi al consumatore. Quali sono i campanelli d'allarme che ci devono suggerire di prestare maggiore attenzione al costruttore con il quale abbiamo attivato un rapporto per acquistare la casa della nostra vita, De Albertis? Ma prima di tutto ci sono le possibilità di capire sostanzialmente chi è l'interlocutore, chi è l'impresa costruttrice, il molto rapido, se riesce, che stiamo casa, chiudendo, sì. E poi probabilmente, l'abbiamo presentato ieri con la Camera di Commercio, rifarsi ad un contratto tipo, un preliminare di compravendita tipo, e magari avvalersi dello strumento che abbiamo presentato ieri, che è una sorta di vademecum che mette in allarme l'acquirente su quelli che sono i punti da guardare con attenzione. Troviamo questo documento sul sito dell'ANCE, della Camera di Commercio di Milano, di Assicom. Della Camera di Commercio di Milano e di tutte le Camere di Commercio, essendo stato accavallato da Unioncamere. Grazie molte a Claudio De Albertis e Riccardo De Benedetti per essere stati con noi. Buona giornata, Alessandro. Eccoci tra poco, Deborah, sì. Alle 12. Bonus energia, riqualificazione energetica degli edifici, gli sgravi fiscali del 55% sono tornati in pista esattamente come erano prima, per cui oggi rifacciamo il punto della situazione. Domani invece parliamo degli elettrodomestici, di tutti i bonus in arrivo con il Consiglio dei Ministri. È il tema del giorno. Le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle notizie ultime. Arriva domani in Consiglio dei Ministri il decreto con gli incentivi ai consumi nei settori in difficoltà. Previsti sgravi fiscali per chi acquista mobili ed elettrodomestici. Per le auto si ipotizza un bonus di 1.000 euro per chi rottama ed esenzione dal pagamento del bollo per 3 anni. Maggioranza battuta ieri in Senato per 3 volte sul disegno di legge sicurezza. La bocciatura riguarda una delle parti più sensibili del provvedimento, la permanenza 18 mesi nei centri per identificazione degli stranieri. Con la bocciatura la permanenza massima rimane a 60 giorni. Approvato invece l'articolo che esclude gli arresti domiciliari o benefici carcerari per gli stupratori. Il caso Eluana Englaro, il governo sta lavorando per intervenire, ha detto il premier Berlusconi. Non si esclude l'ipotesi di un decreto d'urgenza per bloccare l'attuazione della sentenza di Corte d'Appello che autorizza la sospensione della nutrizione artificiale della donna. Infine il calcio con la Coppa Italia. La Juventus ha battuto il Napoli ai calci di rigore nei quarti di finale e va in semifinale, dove i bianconeri troveranno la Lazio. È il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio oggi al decreto in arrivo domani al Consiglio dei Ministri con i provvedimenti che arriveranno. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Domani il governo varerà il decreto sugli incentivi all'auto e alla casa. È il secondo decreto anticrisi ed è certamente il più atteso. Probabilmente vi sarà un bonus per chi acquista un'auto Euro 4 o Euro 5 rottamando la vecchia. Il nostro parco vetture del resto è uno dei più vecchi d'Europa. I benefici saranno maggiori per chi acquisterà vetture più ecologiche. Anche chi cambierà un ciclomotore scegliendone uno a minore impatto ambientale avrà un beneficio. In qualche caso ci sarà anche l'esenzione del bollo sia per le auto sia per le moto. E una detrazione fiscale è prevista anche per chi cambia gli elettrodomestici o rinnova l'arredamento. Giusto stimolare i consumi, a patto che siano sostituiti con altri consumi a più basso impatto ambientale. Così il beneficio è di tutti, non solo di chi acquista. Giusto non limitarsi all'auto, che però in Italia, non dimentichiamolo, con l'indotto occupa circa 1 milione di persone, di cui solo 60.000 impiegate direttamente dalla Fiat. Ma quello che ci si aspetta domani è un segnale forte alla piccola impresa, con misure fiscali che ne rafforzino il patrimonio, favorendo le aggregazioni. Poi bisognerà fare i conti dei costi che graveranno sul bilancio pubblico, cioè che alla fine pagheremo tutti. E qui la prudenza di Tremonti è del tutto comprensibile. Buona giornata a tutti. Grazie direttore, ovviamente a domani alla stessa ora. Quante volte in questi giorni abbiamo letto il titolo scarcerazioni facili e le polemiche sulle scarcerazioni facili? Purtroppo anche tanti episodi brutti di cronaca portano a parlare di questo tema. Per esempio, ieri è stato il giorno in cui il GIP ha mandato in carcere, ha confermato il fermo, ha tramutato in arresto in carcere per il giovane di 16 anni, uno dei tre, quello minorenne, accusati di avere dato fuoco a un immigrato a Nettuno. Non era andata così a Rimini. Partiamo da questo episodio. Ricordate un episodio molto simile, 10 novembre 2008, una scena simile, 4 ragazzi che danno fuoco a un senza tetto, Andrea Severi ancora in gravi condizioni. Ebbene, 3 dei 4, dal 28 gennaio scorso non sono in carcere. Attenzione, sono agli arresti, ma su richiesta del magistrato e su decisione del GIP, sono agli arresti domiciliari in comunità. Quindi sono neanche a casa, ma sono in comunità dove si devono occupare di assistere malati non autosufficienti, disabili, un malato di Parkinson, questo 24 ore su 24. Qualcuno ha detto una vera e propria legge del contrappasso applicata dai giudici. polemiche su questo tema. Dovevano stare in carcere? No, è peggio del carcere assistere persone dopo aver compiuto questo reato, assistere persone con gravi disabilità, così capiscono cosa vuol dire assistere persone che hanno bisogno. Voglio salutare l'onorevole Angelo Alessandri della Lega Nord, buongiorno. Buongiorno a voi. Così come voglio salutare Patrizio Gonnella, che è presidente di Antigone, l'associazione che si occupa per i diritti e la garanzia nel sistema penale, come si legge nella loro dicitura. Buongiorno Gonnella e benvenuto. Buongiorno. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto il procuratore capo di Rimini, che è Paolo Giovagnoli, che è colui che insomma capo della procura, che ha deciso preso questa decisione che fa molto discutere, perché queste persone, tre dei quattro, non sono in carcere ma sono agli arresti domiciliari in comunità. Queste persone sono state arrestate e sono state in carcere 2 mesi. Sono giovani di 19-20 anni, hanno confessato il reato e diciamo si ritiene che non ci sia pericolo di fuga per le loro situazioni familiari. Lei risponde così anche alle polemiche politiche che scarcerano troppo facilmente le persone? Noi ci atteniamo alle leggi, le leggi le fa il Parlamento e quindi gli esponenti politici devono valutare se vogliono cambiare le leggi attualmente in vigore che noi applichiamo. Voglio anche dire che concretamente mi sembra che la nostra scelta sia una scelta adeguata alla situazione, perché sappiamo che il carcere è un ambiente criminogeno dove si impara a fare delinquenti e quindi le persone incensurate e molto giovani, che quindi c'è tutta la possibilità che vengano recuperate ad una vita civile, è più opportuno che abbiano delle pene altrettanto se non più afflittive, perché io credo che assistere dei malati essendo rinchiusi per 24 ore in un istituto è più afflittivo che stare in carcere a non far nulla per le stesse 24 ore, e che abbiano una valenza rieducativa, perché noi pensiamo che queste persone hanno commesso questo reato per totale incomprensione o indifferenza alla situazione di una persona bisognosa e in qualche maniera emarginata. Rendersi conto delle sofferenze, dei disagi che comporta trovarsi in situazioni di questo genere possa essere utile a loro per imparare a comportarsi bene per il futuro. Però voglio dire, l'impressione è quella, insomma, che per andare in carcere bisogna commettere qualcosa di grave per poi restarci. E allora la gente magari pensa che ci sia una sorta di lassismo da parte della giustizia in Italia. No, io credo che quello che purtroppo succede e come vengono date e vengono presentate le notizie in maniera interessata. Recentemente ho sentito parlare autorevolmente di libertà per gli stupratori, quando la notizia era invece arresti domiciliari per i favoreggiatori di stupratori, quindi non era vera semplicemente l'affermazione che era stata fatta. Sono stati dati gli arresti domiciliari a delle persone accusate di favorire la fuga degli stupratori di Guidonia, non agli autori o gli imputati dello stupro di Guidonia. Sono fatti diversi che penso vengano utilizzati per polemiche politiche alle quali la magistratura deve rimanere estranea. Allora, questo ci ha detto il procuratore capo di Rimini Paolo Giovagnoli. Onorevole Alessandri, Lega Nord, lei si è molto arrabbiato, le chiedo brutalmente, perché lei vuole necessariamente vedere queste persone, che ricordo sono agli arresti domiciliari, sono in comunità, si occupano di persone disabili, di malati gravi, necessariamente che vedano il mondo a sbarre, da dietro le sbarre di un carcere? Ma perché ci deve essere un principio che deve passare, che chi sbaglia è in qualche modo essere, o comunque sia la certezza, quindi non si tratta di essere più o meno garantisti. Qua siamo di fronte a persone che hanno fatto un reato, è chiaro che sono stati loro a commetterlo e che la gente deve sapere che c'è una certezza della pena. Ma verranno processati, sono agli arresti e verranno processati, subiranno un processo. Capito, però, ma scontarla in questa maniera, uno pensa perché uno esce fuori. A me torna in mente un anno e mezzo fa, quando incontrai qua a Roma i genitori di quei cinque ragazzi falciati da quel nomade che era uscito grazie all'indulto, era ubriaco e di fatto dopo appena un paio di mesi, questo era una villetta al mare, ai cosiddetti arresti domiciliari, poi addirittura si mise a fare pubblicità con orologi e blue jeans. Io incontrai i genitori, guardarli negli occhi onestamente, di fronte alla politica allora c'era il centro-sinistra con Mastella e altri che non ebbero il coraggio neppure di incontrarli. Onestamente mi fece molto male, invece pensare, ma allora come si fa a pensare di fare delle leggi, rappresentare lo Stato, quando poi chi le deve interpretare, deve dare dei giudizi, si comporta in questa maniera? Io ricordo che in Emilia Romagna c'è un caso, Bologna, il procuratore capo lo dichiarò qualche anno fa, e da lì la mia indagine proseguì negli ultimi anni. L'82% dei magistrati non applicava la legge, per cui c'è poco da dire, lo Stato fa le leggi, noi le applichiamo, purtroppo poi le applicano come quando gli pare, spesso i magistrati in questo paese non applicavano la Bossi-Fini, per cui il poliziotto restava clandestino, lo portava da magistrato, questo per obiezione di coscienza politica non applicava la legge e le clandestino. Voi capite che è difficile credere alla magistratura. Sentiamo Gonnella, che ne pensa lei? C'è una voglia di giustizialismo o, come dice Giovagnoli, di presentare le cose come in realtà non sono, in maniera strumentale da parte della politica? Sì, c'è un circuito vizioso, un circolo vizioso fra alcune forze politiche e i media. I media alimentano alcuni episodi, li alimentano esasperando gli animi, pensando di andare alla ricerca del consenso popolare. Alcune forze politiche approfittano di questi episodi enfatizzati e il circolo si alimenta. Allora bisogna rimettere tutto a posto, bisogna rispettare la Costituzione, bisogna rispettare le leggi e, diciamo, adesso sembrerà strano che un'associazione che si occupi di diritti e di garanzie del sistema penale si trova in concordia con la magistratura, però in realtà erano parole ragionevolissime. Primo di tutto, la custodia cautelare, lo dice la legge, si può applicare solamente se c'è il rischio di reiterazione del reato o se la persona c'è la possibilità che possa evadere, ma lui che possa scappare, ma quello si è consegnato lui. Ricordo che in Italia il 50% delle persone che stanno in galera sono in custodia cautelare. La tanto desiderata America della tolleranza zero prevede in realtà che non si vada in galera in custodia cautelare, che si paghi la cauzione. Io ricordo l'episodio famoso del pugile nero che per una violenza sessuale si è fatto tutto il periodo dell'attesa del processo in custodia cautelare. Ecco, attenzione, la custodia cautelare non deve essere intesa come una pena anticipata. Questo è un principio di diritto. Alessandri, però, perché vedere il procuratore Giovagnoli ci ha detto forse è più istruttivo e più educativo del carcere che queste persone facciano questo? Ripeto, che non stanno scontando ancora una pena, sono agli arresti e poi ci sarà il processo, poi la pena verrà. Non è più istruttivo che sbattano la faccia di fronte ad alcune realtà in questo momento in attesa del processo, invece che passare 24 ore al giorno dietro le sbarre? Sì, no, volevo rispondere dicendo anche che, almeno come partito politico, io sono rappresentante della Lega Nord, non abbiamo cercato di aizzare nulla, questa notizia l'abbiamo imparata dalla stampa e poi l'abbiamo dovuta commentare. In effetti manca ancora il processo, un problema sarebbe che in questi casi ci vuole un processo per direttissima molto più veloce per cercare di acclarare una pena. In questi casi sono veramente violenti, penso agli stupri, penso ai reati pedopornografici nei confronti dei bambini, insomma sono reati gravissimi, in questo caso anche nei confronti di una persona per motivi futili. Ci deve essere una sentenza velocissima che ci dica se questo è colpevole o meno, se è colpevole una pena adeguata. Questo secondo me è un vero è qui che secondo me è il punto su cui si gioca tutto. Il cortocircuito è questo. Poi guardi, io so bene, purtroppo per esperienza personale, cosa vuol dire accudire persone malate, cosa vuol dire soprattutto negli ex ospedali psichiatrici, cosa vuol dire accudire una persona 24 ore al giorno. Per carità, io sono sempre stato favorevole a una sorta di lavoro per il carcerato, che in qualche modo fosse obbligato non a starsi tutto il giorno dietro una cella, ma a scontare la propria pena in qualche modo producendo e facendo qualcosa. E allora perché non va bene allora questo? Perché secondo me non va bene proprio il fatto che ci sia questi tempi lunghissimi per il processo, durante i quali non si sa cosa fare queste persone e si mandino fuori in una sorta di custodia cautelare. Io credo che qua il dibattito deve essere invece forzato in qualche modo e accelerato, perché anche a livello politico si diano dei paletti ben precisi, per cui questi processi avvengano in modo molto veloce. Senta, in 10 secondi evitare come in alcuni casi, quando anche i problemi legati alla mafia, poi per decorrenza dei termini, perché qualche magistrato si scorda, sì, di fare le carte, ci sono i magistrati che escono fuori. Mi risponda in 10 secondi perché devo chiudere. Giovagnoli dice: noi applichiamo le leggi, le cambino i politici invece di sbraitare tutti i giorni a dire i magistrati non applicano le leggi. Io prima sulla Bossi-Fini ho detto che purtroppo le leggi le abbiamo fatte, ci sono i magistrati che non le applicano. Qui c'è un cortocircuito dell'intero sistema che va rivisto. Grazie, grazie all'onorevole Alessandri, grazie a Patrizio Gonnella degli Antigone per aver trattato questo tema, insomma, che ripeto aleggia tutti i giorni sui giornali. Il traffico, e poi parliamo di un qualcosa che, insomma, in Italia o ci sei o non ci sei, o ce l'hai o non ce l'hai, o ci sei dentro o ci sei fuori: Facebook. Allora, pare che Barack Obama abbia 4 milioni e mezzo di fan, ma magari mentre ve lo sto dicendo, anzi sicuramente sono aumentati. Leggevo ieri su Vanity Fair, Homer Simpson ne ha 2 milioni e 200 mila, la Nutella 2 milioni e 100 mila, la pizza 2 milioni, la Coca-Cola 2 milioni e 300 mila. Vabbè, è Facebook, il più popolare social network. Ieri ha compiuto 5 anni fa, è nato così in maniera molto, molto senza grosse pretese probabilmente. E dopo 5 anni invece anche in Italia la domanda che ti senti dire è: ma sei su Facebook oppure no? Federico Guerrini, buongiorno. Buongiorno. Autore del libro Tutto su Facebook, Öpli. Allora, beh, lei è su Facebook ovviamente. Se no uno che scrive un libro a fare. Allora, un tema interessante di Facebook: ma c'è la sicurezza dei dati, della privacy? Perché tutti si buttano su Facebook e poi dopo dicono: oddio, ma adesso che ho messo il mio profilo, adesso che scrivo, chi mi legge? Cosa bisogna fare per stare attenti? Sì, di solito si tende un po' a sottovalutare questo aspetto, perché molti si iscrivono senza consultare condizioni d'uso e senza regolare per bene, diciamo, le impostazioni della privacy. In realtà, se si vuole mantenere, diciamo, un profilo discreto senza dare troppo nell'occhio, bisognerebbe prendere alcuni accorgimenti. Per esempio? Per esempio, consentire l'accesso ai propri contenuti soltanto ai propri amici e non anche agli amici degli amici. Ah, che uno poi si tira dentro qualcuno che non conosce bene, insomma. Sì, perché Facebook per impostazione predefinita ha impostato anche gli amici degli amici. Quindi di fatto quello che noi facciamo su Facebook viene visto da molte più persone di quello che noi pensiamo. Senta, ma 5 anni fa, quando è nato? Tra l'altro, a parte che leggevo che adesso gli ideatori di Facebook vanno a Davos, cioè voglio dire, vengono incontrati tra i potenti della Terra, si siedono con i potenti della Terra. Ho letto che dicono, hanno detto, la prossima sfida è un social network per raccogliere le emozioni della gente. Mi inquieta già abbastanza quando si parla di amici su Facebook. Ora le emozioni, insomma, questa è la nuova frontiera. 5 anni fa, quando sono partiti, che pensavano di questo social network? No, sicuramente nessuno si aspettava un successo di queste dimensioni, e anche in Italia il sito è decollato in realtà da poco, da quando è stato poi tradotto in italiano. Quello, come diceva lei, secondo me giustamente, che è un po' inquietante, è che effettivamente tende a essere molto totalizzante, per cui chi non è dentro Facebook a un certo punto si sente quasi come se fosse amputato di una parte delle proprie relazioni sociali. 160 milioni di utenti in tutto il mondo, ma anche qui, mentre vi parlo, magari saranno già qualcuno di più. 6 milioni in Italia, 16 miliardi in dollari il valore del sito. Ogni giorno dal 2007 in media ci sono 250.000 registrazioni. Allora, qualche dettaglio su come, il primo consiglio per come stare sicuri, ce l'ha detto. Però quando si mettono i nostri dati, che tipo di sicurezza c'è che Facebook non li utilizzi questi dati e dia a qualcuno a cui magari ci dà fastidio? Sì, il discorso è un po' delicato. Facebook, non, almeno secondo quanto afferma, non dà i dati personali della singola persona, però può dare dei dati aggregati di persone che hanno gusti simili, che hanno abitudini simili, in base anche a quanto noi scriviamo sulla bacheca e così via. Quindi di fatto per l'azienda, per chi si occupa di marketing, sono dei dati molto appetibili. Poi più che Facebook, in realtà diciamo il pericolo, diciamo così, può venire dalle applicazioni di terze parti che uno installa, in cui ogni qualvolta noi mettiamo un nuovo plugin, consentiamo che questo acceda alle nostre informazioni del nostro profilo. Quindi insomma c'è un margine di insicurezza, un margine di incertezza, insomma, in cui ci buttiamo un po' senza rete in un mondo un po' troppo vasto che magari fatichiamo poi a controllare? Sì, credo che effettivamente ci sia un po' di superficialità nell'utilizzo di questo strumento. 20 milioni gruppi registrati sul sito, leggevo sempre ieri su Vanity Fair, 3 miliardi i minuti che si passano su Facebook ogni giorno nel mondo, 3 miliardi di minuti, ovviamente sommando tutte le persone che... Ma voglio dire, ma perché banalmente un ascoltatore ci scrive, ma perché io mi devo mettere su Facebook? Cioè che cos'è? Lei è riuscito anche a analizzare quelle che sono un po' le motivazioni che spingono, non so, la classica è voglio conoscere persone... con cui mi ero perso di vista da 20 anni, che forse ci sarà anche un motivo per cui ti sei perso di vista da 20 anni, ma comunque sì, infatti il sito in origine nasce per quello, cioè, prima per gli studenti delle scuole americane, poi per mettere in contatto persone che un po' si erano perse di vista. Poi effettivamente questo è uno dei motivi principali ed è quello che distingue Facebook da altri siti, perché a differenza di altri social network, su Facebook di solito ci si registra con il proprio nome e cognome, quello vero, sì. Perché se no non avrebbe senso, cioè non si potrebbe utilizzare al meglio, perché chi ti cerca deve poterti trovare facilmente. Poi una volta dentro si viene un po' rapiti da... diciamolo, funziona un po' così. Si vede scorrere un po' la vita delle altre persone con cui sei in contatto, sì. Come un diario condiviso, e quindi si resta un po'... incantati. Vabbè, speriamo che si fermino agli amici, tra virgolette, che non vogliono catalogare anche le emozioni, gli ideatori di Facebook, ma staremo a vedere. Io intanto la ringrazio, Federico Guerrini, voglio ricordare, autore del libro Tutto su Facebook, Pleditore, lo trovate, il libro ovviamente 128 pagine, insomma, per conoscere tutto di questo social network. Ci fermiamo qui, grazie a Laura Marchesi e Alessandro Marcotulli in regia, o meglio in redazione, e Carmelo Lauricella in regia. Tra poco Giuliano Ferrara parla dell'attualità politica, 800 24 0024 per intervenire, noi ci sentiamo domattina.